Radio 24 Reportage. Expo due anni dopo. Le nuove sfide di Milano. Di Roberta Pellegatta. Queste opportunità ti capitano ogni tot decenni e Milano ce l'ha in questo momento. Bisogna giocarsela bene. Come spiega il sindaco Giuseppe Sala, l'occasione è quella che Milano non vuole perdere, riuscire, a due anni dal successo di Expo, a cogliere le nuove sfide internazionali che Brexit sta lanciando, sfidando nella corsa le capitali europee. A Londra hanno sede l'EBA, l'autorità bancaria europea, l'EMA, agenzia europea del farmaco, e altre istituzioni finanziarie destinate a spostarsi altrove quando l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea sarà effettiva. Milano vuole giocare la partita, forte dei suoi numeri, un PIL che vale il doppio di quello del paese, 1,2%, l'export regionale ai massimi storici, 112 miliardi, 90 imprese con più di un miliardo di fatturato, 8 università, i giovani sempre più numerosi, quelli tra i 15 e i 34 anni sono aumentati di quasi il 5% nell'ultimo biennio. Per il sindaco Beppe Sala il momento è propizio sotto tutti i punti di vista, con l'imminente risistemazione dell'area Expo e degli scali ferroviari a rappresentare la scommessa maggiore per Milano. Diciamo che è attrezzata perché i suoi comparti sono cresciuti dall'università all'industria e alla creatività. È scelta dai giovani e questo è un elemento importante, quindi sta cambiando sangue. Certo c'è molto da fare, Milano però avrà ancora più successo e successo deve essere il successo di tutti se starà nel mondo, quindi la nostra regola è una sola, Milano internazionale. Tuttavia alcuni difetti vanno sanati per riuscire nella competizione con le altre piazze finanziarie europee a partire dalle infrastrutture aeroportuali, come spiega il presidente uscente di Assolombarda Gianfelice Rocca. Se si vuole essere città mondo, città metropolitana mondo, bisogna avere comunque la capacità di andare punto a punto nei grandi centri della conoscenza o del consumo che ci sono in giro per il mondo, e su questo la Malpensa, come emerge dai dati, ha un indice 30, quando Monaco ha un indice molto più alto, superiore al 50, e Parigi e Londra a 90, quindi dobbiamo lavorare molto su quello che sono i trasporti di lunga distanza. È positivo da questo punto di vista, pur ammettendo che molto si può fare ancora, Pietro Modiano, presidente di SEA, la società che gestisce gli scali aeroportuali milanesi. Lo sentiamo al microfono di Anna Marino. Milano è attrezzata, sì, anche se non è una cosa scontata, perché noi non siamo una capitale, siamo in gara con le grandi capitali. Siamo attrezzati per fare questa partita, sì, noi dobbiamo stare al fianco testa a testa con Monaco, con Barcellona, forse non riusciamo ancora a Parigi, Londra, ma siamo attrezzati perché abbiamo tante cose buone, abbiamo tecnologia, qualità del lavoro e infrastrutture. Certo, gli aeroporti possono essere una strozzatura. Se Malpensa fosse andata verso il declino a cui alcuni pensavano di averla destinata, avremmo avuto un problema, perché non c'è un'area metropolitana senza un grande aeroporto intercontinentale. Fortunatamente, per virtù, Malpensa fa più 19% di passeggeri a dicembre, più 15% nel cargo. L'aeroporto intercontinentale l'abbiamo, ecco. Logistica funziona e funziona la connettività, anche quella internazionale. Insomma, possiamo fare molto di più, però la partita la stiamo giocando. Cresce Linate, cresce Bergamo e cresce Malpensa, quindi senza cannibalizzarsi gli uni con gli altri, il che dimostra che siamo in grado di vivere insieme e crescere insieme in modo positivo. Il nodo aeroporti non è l'unico. Da migliorare, per giocare la partita europea, anche burocrazia, fisco, giustizia, come spiega Guido Rosa, presidente di AIBE, Associazione Banche Estere in Italia. Milano è una città nella quale si lavora bene e si vive bene. Questi sono i grandi attu. Naturalmente poi Milano ha anche dei difetti, ma che non sono tipicamente di Milano, sono i difetti del sistema Italia. Per esempio, naturalmente, la burocrazia che non funziona, che è fondamentale, la giustizia che non funziona, che è fondamentale, il fisco che certamente non è trasparente come dovrebbe essere, come è in altri paesi. Però anche qui Milano potrebbe, se si organizza bene, giocare alcune carte, perché se è vero che la giustizia mediamente va male in tutta Italia, a Milano va molto meglio che in altri posti. A Milano c'è un tribunale che ha delle competenze finanziarie notevoli. Cosa servirebbe, a suo parere, non solo da parte di Comune e Regione, ma anche del Governo, per rendere Milano più attrattiva? Si deve formare una task force composta da rappresentanti del Comune, della Regione, del Governo, della Banca d'Italia, magari della giustizia. Si fa una lista delle 40 banche internazionali che sono presenti a Londra e che saranno in qualche modo chiamate a dislocare alcune delle loro attività, e poi si va a trovare il management di quelle 40 banche uno per uno a Londra. Una missione, sul modello di quelle delineate da Guido Rosa, è già avvenuta. Il 29 marzo scorso, infatti, i ministri dell'economia e degli esteri Padoan e Alfano, il governatore Lombardo Maroni e il sindaco di Milano Sala sono volati insieme a Londra per incontrare la comunità finanziaria. Obiettivo: riuscire a trasferire nel capoluogo lombardo la sede dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Si tratta di un affare da 1,7 miliardi all'anno per l'economia milanese lombarda, tra effetti diretti e indiretti. Quasi 800 le persone dello staff dell'agenzia che traslocherebbero da Londra nel capoluogo lombardo e circa 56.000 i visitatori che l'agenzia attirerebbe ogni anno. La sede è già pronta, la regione ha messo a disposizione il pirellone e c'è un ambasciatore commissario scelto dal governo in accordo con regione e comune per perorare la causa, Enzo Moavero Milanesi, già ministro degli affari europei nei governi Letta e Monti. La sfida non è facile perché EMA fa gola tanti, da Vienna a Madrid, da Copenaghen a Dublino, a Stoccolma, ma è convinta che Milano possa farcela Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma. Io penso che Milano sia veramente la candidata ideale per portare EMA in Italia. Penso anche che la sede del Pirellone sia fantastica, un grande riconoscimento che Regione Lombardia e la città hanno voluto dare. La salute è la prima cosa, è avere in Italia chi della salute se ne occupa tutti i giorni. La registrazione di farmaci nuovi penso che sia un grande orgoglio per tutti gli italiani e naturalmente per i milanesi. Entro metà maggio è attesa a Milano una delegazione dell'Agenzia del Farmaco. Visiterà il Pirellone per un sopralluogo nel palazzo candidato a essere la sede temporanea dell'agenzia, in attesa della realizzazione di quella definitiva, forse a Sesto San Giovanni, oppure nell'area che nel 2015 ha ospitato Expo. Qui, 2 anni dopo l'esposizione universale, è pronto il progetto per il primo polo di eccellenza scientifica e di ricerca italiano, quello che si chiamerà il Parco della Ricerca, del Sapere e dell'Innovazione. Stando allo studio presentato dall'European House Ambrosetti, il progetto promette in 10 anni un giro d'affari di quasi 7 miliardi e 6.700 posti di lavoro. Prevede l'insediamento dello Human Technopole, il trasferimento delle facoltà scientifiche dell'Università Statale di Milano, l'inserimento di una struttura ospedaliera che, secondo i rumors, potrebbe essere l'Istituto Galeazzi. Sulla carta, il post-Expo appare dunque un volano di sviluppo decisivo per il paese. Ne è convinto Giuseppe Bonomi, la D di Arexpo, la società titolare dell'area. Io credo molto perché è una piattaforma naturale, già urbanizzata, oltre che già bonificata, sconta positivamente un forte commitment delle istituzioni pubbliche rispetto alla presenza di funzioni pubbliche attrattive, quale l'Università Human Technopole. E noi abbiamo misurato sul campo negli ultimi mesi quanto questo possa attrarre l'interesse del mondo delle imprese, in un'ottica e con un respiro davvero internazionale, perché quando si parla, molto spesso il termine è abusato, ma si parla di hub, noi pensiamo a un concetto moderno di hub, cioè a un centro di raccolta e di smistamento di saperi e di conoscenze. Arexpo ha lanciato un bando per trovare un unico soggetto in grado sia di disegnare l'intero master plan, sia di costruire e poi gestire per 99 anni gli edifici, un'operazione che entra in questi giorni nella fase calda con la spedizione delle lettere di invito agli operatori. Dei 4 candidati potrebbero restarne 3 in corsa, tra i quali i 2 colossi in pole position, come il gruppo Coima di Manfredi Catella e gli australiani di Lendlease. Intanto, per rendere Milano attrattiva per gli investitori stranieri, si sta muovendo anche la Commissione Finanze della Camera. È infatti in corso di elaborazione una proposta di legge per garantire misure in grado di attirare nel capoluogo lombardo le banche e le società finanziarie che dovranno lasciare Londra. Se per EBA, l'autorità bancaria europea, ci sono pochissime speranze, tuttavia Milano può ottenere alcune funzioni legati ai mercati finanziari, in particolare i servizi di Euroclearing, quelli a garanzia del funzionamento del mercato dei derivati, nonché attrarre alcune delle attività che le banche internazionali, quelle che operano in investment banking, dovranno traslocare da Londra. Per questo la Commissione Finanze ha varato uno strumento ad hoc, una legge speciale, di cui è promotore Maurizio Bernardo, che come presidente della Commissione Finanze della Camera avanzerà la proposta al Parlamento. La misura dovrebbe contenere il taglio dell'IRAP, la modifica della disciplina degli interessi passivi, agevolazioni in ambito immobiliare, il cambiamento della tassazione dei dividendi transfrontalieri. Sentiamo Maurizio Bernardo. L'IRAP, per quanto riguarda come agevolazione fiscale, che passi dal 3,9% all'1,8% per chi si insedia all'interno del distretto. Penso alla tassazione in materia di lavoro, cioè l'esenzione sulla parte di realizzazione di nuovi occupati per coloro che arrivano da città straniere e non riguardino soltanto i loro dipendenti, ma alimentare occupati anche italiani. Questo possa alleggerire le tasse che sono sul tema del lavoro. E quindi crearlo per alcuni anni, perché queste aziende possono ad esempio impegnarsi che per 5 anni ci sia la garanzia che queste aziende rimangano in Italia, e quindi significa dare garanzia anche all'occupazione milanese, ma direi italiana, questo secondo me deve essere uno dei cavalli di battaglia. La semplificazione amministrativa relativa anche agli insediamenti dal punto di vista urbanistico. Io vedo 3 punti per noi importanti, necessari, che sono questi. Noi stiamo già lavorando su alcuni fronti. La flat tax è già sia attuativa e attuale, diventa un fatto importante, perché a noi risulta dall'amministrazione finanziaria che da 40 domande che c'erano ce ne sono 1100 di richiesta di persone straniere o italiane che avevano lasciato il paese per ritornare, quindi ci sono dei parametri che consentano loro di pagare quei 100.000 euro per il ritorno in Italia, ma poi pagando le tasse al pari di ogni italiano. Quello è già oggi attuativa come cosa. Il distretto finanziario attende che il governo faccia un decreto che definisca i contorni e quindi la possibilità di voci di agevolazione. Io penso che il decreto riguardi alcune settimane, quindi di questo parliamo. Asso Lombarda, Confindustria, Milano, Monza e Brianza è tra i sostenitori della partita. Ancora il presidente uscente Gianfelice Rocca. Milano deve essere una leader e deve farsi carico di grandi progetti, non per conquistare niente, ma per essere più utile al paese. Quindi io credo che studiare qualcosa di speciale per Milano valga veramente la pena. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.